Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Ogni presidio ha la sua discarica da far chiudere e la sua rotonda come campo di battaglia. In ogni area il nemico ha un nome diverso, ma comune è la bandiera, l'emergenza rifiuti. L'ultimo fronte aperto è Giugliano, Interland napoletano, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi. Pochi giorni prima c'era stata l'intifada di Tersigno, con le fiamme ai camion, alle molotov, ma anche le proteste delle mamme vulcaniche. E solo 2 anni sono passati dalle barricate di Chiaiano e Pianura, dove pur tornano a registrarsi segnali di protesta e tensione. È un viaggio sui vari fronti aperti della monnezza, questa puntata di Storiacce, perché se i fuochi sono diversi, unica è la battaglia che migliaia di cittadini portano avanti e che rischia di esplodere contemporaneamente con strade che tornano ad essere invase da cumuli di sacchetti. Partiamo dall'ultimo fronte allora, Giugliano, dove i rifiuti sono la montagna di ecoballe da una parte e quelli interrati in illecitamente dall'altra. Ora, dopo la crisi di Tersigno, nuovi camion portano immondizia nel sito di Taverna del Re, già colmo, e torna la protesta, come ci racconta dalla strada Nello Pennacchio. Giugliano oggi, come sempre, rappresenta lo sfogatoio dell'emergenza di turno dei rifiuti in Campania. La popolazione non ce la fa più, sono quasi 2 decenni che succede questa cosa. A Giugliano sono strutturati in discariche autorizzate qualcosa come 15 milioni di tonnellate di rifiuti. Ce ne sono circa altrettante sotto forma di ecoballe, oltre che tutte le discariche abusive. Questo ulteriore affronto che viene fatto in questi momenti è veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti oggi registro una partecipazione veramente copiosa alla manifestazione. Contro chi sono questi fischi? Contro gli amministratori. È un studio di stoccaggio per ecoballe che però oggi accoglie il tal quale. Cioè, è stata tradito quello che vi era stato detto? Sì, c'è stata proprio un'ordinanza addirittura del Consiglio dei Ministri che stabilisce la chiusura definitiva di Taverna del Re, quale studio di stoccaggio, in attesa di bonifica. Parliamo di 6-7 milioni di ecoballe. Ma perché è stata riaperta Taverna del Re? Perché dopo Tersigno, diciamo, adesso c'era un posto dove dover mettere l'immondizia rimasta nelle strade? Sì, perché in realtà Giugliano rappresenta un territorio, oltre che abbondante, facilmente gestibile per deposito rifiuti. Però ci sono stati già anche degli scontri, anche a Giugliano. C'è stato un tentativo di occupazione simbolica della casa comunale da parte di alcune donne, visto che il sindaco non è nemmeno in sede. Gli scontri sono avvenuti, come in questi giorni, fuori all'impianto di Taverna del Re, tra le forze dell'ordine, in assetto alla sommossa. Taverna del Re purtroppo è già riaperta. Noi vorremmo che la chiudessero definitivamente e che finalmente si passasse alla fase bonifica del territorio. Voi in qualche modo siete anche esasperati perché il vostro territorio è stato un territorio su cui il peso dell'emergenza dei rifiuti leciti e illeciti è gravato molto pesantemente. Non si dimentichi che noi siamo la famosa Terra dei Fuochi, no? Ecco, ma le ecoballe che sono a Taverna del Re, a quale emergenza risalgono? Dato che il termodistruttore di Acerra funziona pochissimo e male, e da poco tempo anche, ovviamente ci troviamo sul groppone questi 6 milioni di ecoballe che stanno là. Quanti? 6 milioni. Mediamente un'ecoballa pesa sulle 2 tonnellate, quindi siamo sui 12 milioni di tonnellate. Come pensate di portare avanti la vostra protesta e fino a che punto, diciamo, siete disposti ad arrivare? Noi presideremo la città finché non viene richiusa Taverna del Re, finché non vengono rimessi sul tavolo i finanziamenti già legiferati. Se non si parla di bonifiche, noi non vogliamo ospitare altri territori. La crisi di Taverna del Re, come i fuochi notturni dei rifiuti bruciati a Giugliano, da anni vengono denunciati da cittadini come Tilde Adamo, che già in passato ci accompagnò in un giro in quelle terre di nessuno, lungo il cosiddetto asse mediano, dove i rifiuti, soprattutto tossici, vengono abbandonati, ammucchiati e bruciati nei roghi che infiammano le notti di Giugliano. Ci sono montagne di ecoballe che è impossibile smaltire con un piano rifiuti che non è mai andato a regime. Taverna del Re era un sito per stoccare ecoballe, un sito provvisorio. Poi fu chiuso 2 anni fa ed è stato riaperto fatto praticamente in questi giorni. Noi non vogliamo più avere rifiuti in questo territorio. Questa è anche la zona ribattezzata la Terra dei Fuochi. Ci sì. sono ancora questi fuochi? Continuano a starci questi fuochi nei pressi proprio dove ci sono le coballe, quindi anche è un pericolo. Noi facciamo a ronda proprio per controllare questi siti. Che cosa si brucia e chi brucia? Bruciano i terroristi ambientali, così li chiamiamo, cioè persone che comunque vengono a sversare di tutto, come copertore e altri materiali tossici, per probabilmente economizzare dove portare questi rifiuti. Da Giuliano a Terzigno è stata ribattezzata l'Intifada, l'ultima battaglia a colpi di pietre e molotov contro l'apertura di una seconda discarica nel Parco Nazionale del Vesuvio. Alla fine uno stop e un'intesa ha portato alla cessazione degli scontri più aspri, ma le proteste dei residenti della zona restano forti, come le loro richieste di chiarimenti sull'inquinamento delle falde acquifere e l'incidenza dei tumori. Sono partiti anche degli esposti e soprattutto non è mai finito il presidio dei cittadini, cittadini come Maria Rosaria Esposito, avvocato che protesta da anni. Tutte le sere, tutti i giorni, rispetto ai presidi di Terzigno e di Boscoreale, ci sono sempre persone che sono lì fisse, cittadini e quelle delle amministrazioni, le quali hanno sottoscritto un accordo che personalmente ci ha lasciato molto perplessa, perché ovviamente la validità giuridica di quel foglietto di carta lascia il tempo che trova. Del resto anche a Giuliano, a Taverna del Re, avevano sottoscritto un accordo uguale e vedo come l'hanno rispettato. Il punto è che noi abbiamo un territorio martoriato, noi chiediamo la bonifica di questa zona. Bisogna specificare che la Cava Sari è l'ex Sari, un'ex discarica mai bonificata. Il punto è che se non partiamo, non da oggi, da ieri, con un ciclo di rifiuti che abbia un senso, noi il problema non lo risolveremo né ora né mai. Certo, però ci vogliono anche dei tempi tecnici, diciamo, per realizzare queste cose. Perfetto, e forse ragione. A un certo punto c'è anche un'emergenza che a volte incombe. Quello che io adesso voglio capire è: ci sono stati i giorni del grande scontro, ci sono state le 10.000 persone in piazza, quindi in qualche modo il presidio e la protesta anche a Terzigno resta calda finché voi non otterrete che cosa? Vogliamo che la Cava Sari, la discarica nel Parco Nazionale del Vesuvio, venga chiusa e venga bonificato il territorio. Questo fantomatico accordo così sbandierato, no? Come sempre in ogni accordo prevede che però la Cava Sari verrà chiusa salvo situazioni di criticità, e quindi apre la porta ad una nuova apertura della Cava Sari alla prossima emergenza. In questo momento più. Quali rifiuti vengono sversati nella Cava Sari? Nessuno. Hanno versato terreno e argilla per tamponare quello che loro ritengono sia il problema, cioè il cattivo odore, ma non, ovviamente, e questo rende invivibile la situazione, ma non è questo il problema. Riprenderanno a scaricare, queste sono le voci che abbiamo sentito, probabilmente 18 comuni della zona rossa ci dicono che porteranno i rifiuti secchi di questi comuni. Le dico che ovviamente la cosa è impossibile, perché i camion scaricano tal quale, è il sacchetto preso dal cassonetto da in mezzo alla strada. Lei è stata tra quanti ha manifestato anche nei giorni in cui c'era la protesta più forte? Le pietre a qualcuno? No. Non ho mai accennato un compattatore, neanche per sogno. Io sono tra quelle che manifesta contro questa discarica dal 2007, cioè da quando il governo Prodi la individuò come discarica. Voi che eravate in piazza a manifestare pacificamente, certo, vi siete fatta degli scontri che ci sono stati a Terzigno, delle molotov? Allora, io sicuramente si è creato un clima di guerra, sicuramente magari qualcuno ha approfittato di questa situazione. Se mi chiedi se sono intervenuti i delinquenti, penso di sì, però è un mio pensiero personale. Dico che però l'esasperazione fa comodo a tanta gente. Avete avuto la percezione di infiltrazioni? Sì, è stato raccontato che ad incendiare un compattatore, ci hanno raccontato che erano 3-4 giovani che nessuno aveva mai visto, cioè quelli che non li hanno riconosciuti come residenti a Terzigno. Sicuramente qualcuno qualcuno è venuto e ha approfittato di questa situazione, ma questo, diciamo, non cambia di una virgola le ragioni della protesta, che sono assolutamente legittime e che, diciamo, non trovano dall'altro lato un interlocutore che venga da noi e venga a discutere. Storielle, storiacce. Fermata una discarica, bloccata una protesta, rischiano di aprirsene molte altre contemporaneamente. È il fragile equilibrio dell'emergenza rifiuti intorno a Napoli, che ora, dopo gli scontri di Terzigno, potrebbe saltare ancora altrove. Dopo essere andati tra i manifestanti di Giugliano e di Terzigno, andiamo a Chiaiano, intorno a quella rotonda dove 2 anni fa ci furono altre barricate e altri scontri. Dal presidio non manca mai Susanna Frantina. Noi continuiamo e dal fronte proprio del territorio di stare quindi in piazza e cerchiamo ovviamente di far uscire quelle che sono le nostre proposte che da 3 anni cerchiamo di mettere in luce. Quali sono ancora oggi le ragioni della protesta? È una forte vigilanza rispetto alla discarica di Chiaiano, che è qui vicino alle casse praticamente, e cerchiamo in tutti i modi, o entrando nel sito quando sia possibile, e siamo riusciti a entrare per la prima volta dopo 3 anni a luglio di quest'anno. E quando siete entrati, cosa avete visto? Tengo a sottolineare che la visita era stata preannunciata, quindi diciamo che la situazione a occhio nudo è abbastanza tranquilla, cioè la discarica di Chiaiano tutto sommato risulta essere abbastanza a norma. La cosa che però noi abbiamo contestato con l'ingegner Viparelli, direttore tecnico della discarica di Chiaiano, è tutto quello che è stato fatto precedentemente. Per quanto riguarda la falda acquifera, non sono state fatte delle analisi precedenti all'apertura della discarica. Anche se si dovessero fare analisi ora e, diciamo, la falda esce inquinata, loro ovviamente non hanno il riferimento del prima. Ecco, avete intenzioni di animare di nuovo forme di protesta? Lo spirito che ci ha mosso ancora una volta a protestare in piazza, noi quasi tutte le sere riusciamo a bloccare i camion che entrano in discarica. Perché li blocchiamo? Li blocchiamo perché fondamentalmente è stata fatta un'ordinanza di conferimento straordinario su Chiaiano, anche se lo stesso dottor Bertolaso ha annunciato che Chiaiano non avrà conferimenti straordinari e la situazione è tranquilla. Questo è assolutamente falso. Con questa nuova emergenza, l'ultima, a causa della chiusura di Cavasari, qua noi abbiamo conferimenti straordinari che ci erano stati chiesti per passare i camion dalle 20 e non più dalle 23. Noi ci esponiamo davanti ai camion dicendo che almeno, già che il danno della discarica già c'è, giustamente diceva, la discarica già aperta, limitiamo i danni e non facciamo sì che questi camion aumentano, perché a livello di vivibilità vicino alla discarica noi siamo abbastanza rovinati, sentiamo rumori di camion di notte, rumore che sono autocompattatori, ma di mattina noi sopportiamo il rumore dei camion che portano il terreno per coprire i rifiuti notturni. Se noi andiamo a aumentare il conferimento, qua la situazione diventa invivibile. Si sente puzza a Chiaiano? La puzza c'è sempre stata, pur ovviamente si sente di più, ripeto, il conferimento sono maggiori. Sono passati, le dico proprio una cosa che è successa oggi, alle 2, io non ero a casa, mi hanno avvisato che stavano passando compattatori all'1, ore 13, che erano scortati dalla polizia, perché quindi sono conferimenti straordinari, non sanno come pulire Napoli. E quindi voi temete che in questo momento, diciamo, la vostra tutta l'emergenza possa ricadere sulla vostra discarica, che è già aperta e che eventualmente possa, diciamo, essere il punto di riferimento anche dell'immondizia che si sta togliendo da Napoli? Purtroppo la cosa è così, cioè già è successa, perché l'unica discarica per quanto riguarda il discorso della provincializzazione della provincia di Napoli ora è Chiaiano, perché Terzigno non prenderà più rifiuti di Napoli, e purtroppo stanno facendo un altro scempio, che è quello di Giugliano, cioè versare spazzatura, le dico proprio, a terra, su un telone, in una zona che già c'è uno scempio ambientale vicino alle vecchie coballe. Che tipo di organizzazione vi siete dati? Vigiliamo ogni sera. È una protesta molto al femminile, questa, contro l'emergenza rifiuti, e da anni la segue Teresa Musto a Chiaiano. Nonostante l'apertura della discarica di Chiaiano, l'emergenza non è mai finita. Noi abbiamo l'esercito da 2 anni che controlla e presidia il nostro territorio. Questi due anni, cumuli di rifiuti si sono riformati a Chiaiano oppure no? Sì, sì, assolutamente sì. E bisogna dire che Chiaiano, tra l'altro, a Chiaiano è partita la raccolta differenziata porta a porta. Ci sono delle zone in cui non viene fatta la raccolta differenziata porta a porta, per cui semplicemente in quelle zone non si raccoglie né dai cassonetti che non ci sono più né porta a porta. A che punto è la discarica di Chiaiano? Rischia di essere quasi piena ormai? Sì, sì, la discarica di Chiaiano non è quasi piena, anche perché con, diciamo, l'apertura dell'ultima fase critica hanno sversato molto più di quanto avrebbero dovuto sversare, per cui c'è stato un problema proprio di viabilità e di gestione della viabilità, nel senso che questi compattatori che attraversano il centro e le strade di percorrenza, perché ricordiamo che Chiaiano non è in una zona isolata, ma Chiaiano è praticamente nella città di Napoli, e quindi praticamente c'è stato un problema enorme, tant'è vero che si è ritornati nelle strade a bloccare i compattatori, perché non era, cioè c'era praticamente un via vai costante anche nelle ore in cui non si può sversare di compattatori che andavano a Chiaiano, perché con la protesta di Terzigno e con gli altri fronti che si sono aperti ovviamente c'era difficoltà a sversare, ovviamente. Quindi la protesta potrebbe ricominciare in un certo senso, dei segnali ci sono anche già stati anche a Chiaiano, e per quale ragione? I compattatori hanno sversato sempre più di quanto per legge avrebbero dovuto sversare. Secondo, perché noi non abbiamo nessuna, la gente ormai non ha più nessuna certezza o non ha più sicurezze rispetto a quello che è, che possono essere le scelte e le decisioni che di volta in volta le istituzioni prendono. Allora, siccome nel Parco delle Colline, dove c'è la cava del poligono in cui è stata allestita la discarica, ci sono altre 12 cave, allora è evidente che nessuno di noi dorme sonni tranquilli, perché da un momento all'altro chiunque potrebbe prendere qualsiasi tipo di decisione, ovviamente sulla pelle dei cittadini, perché nessuno ha mai interpellato i cittadini o ha chiesto loro se erano d'accordo, se c'erano altre strade. Una forma di protesta preventiva, cioè per evitare che possano decidere di utilizzare anche altre cave. Il problema della protesta non è sicuramente venire a sversare nel nostro territorio, significa distruggere ulteriormente l'unico polmone verde che è rimasto nella città di Napoli, ma il problema della protesta è una protesta di consapevolezza, è una protesta per dire che oggi non è più pensabile proporre un sistema di gestione dei rifiuti così come è stato pensato, così come con le discariche e con gli inceneritori. Prima di Chiaiano fu l'altra periferia opposta di Napoli, Pianura, ad infiammarsi per l'apertura di un'altra discarica, ed ora di nuovo anche nella città, tra i vicoli o nelle zone meno centrali, i sacchetti sono colline da dribblare per strada. E per far sentire più forte la loro voce, decine di comitati si sono accorpati in un'unica rete, Coreri, anche per ribadire che la loro non è una battaglia del NIMBY, Not in My Yard, ma una battaglia comune per la fine di un'emergenza che dura da troppo per essere ancora chiamata così. A seguirla Nicola Capone, segretario delle Assise di Napoli. I fronti più caldi noi prevediamo siano proprio le zone interne, Giugliano, Caserta, il Salernitano e il Beneventano. Quelle sono zone in cui già in parte si sta scaricando e i comitati vivono una situazione di emergenza, perché sono comuni con pochissimi abitanti. Noi prevediamo proprio nella immediata provincia del Salernitano e del Napoletano il prossimo fronte caldo. Perché in queste zone finisce gran parte, anche parte dell'immondizia raccolta da Napoli, e quindi per questo, ecco, le proteste si rinfocoleranno in queste zone? Questo già da 2 anni accade. Se questi potrebbero essere i prossimi fronti caldi, dopo Terzigno segnali di protesta ci sono stati a Giugliano, ancora a Chiaiano, e non si è mai sopito davvero neanche la protesta di Pianura. Com'è la situazione nel centro della città? Napoli non è in una situazione di emergenza. quella vissuta un anno e mezzo fa. E ci sono però dei segnali preoccupanti, faccio riferimento alla discarica di Pianura. Pianura è stata dissequestrata, è una discarica, è stata la discarica regionale per diversi decenni, è stata una discarica definita discarica d'Italia perché lì hanno spezzato rifiuti speciali da tutto il paese. Oggi dissequestrarla è un brutto segnale per la prospettiva. Ecco, il problema della crisi e della previsione anche delle prossime crisi, noi prevediamo che riempiti ancora, saturate ancora i buchi che hanno creato in precedenza, noi saremo in crisi tra un paio di mesi di nuovo, allora sì, la crisi rassomiglierà a quella che abbiamo visto. Perché ciclicamente la protesta a Napoli e dintorni si sposta in realtà diverse, si sposta a seconda della nuova discarica che deve essere aperta? C'è stata prima appunto Pianura, poi Chiaiano, ora Terzigno. Perché noi cerchiamo di risolvere il problema togliendo l'acqua dalla vasca e non chiudendo il rubinetto. Allora il problema è a monte, una pianificazione che tenga presente realmente la soluzione del problema. Allora le faccio un esempio: sul nostro territorio abbiamo impianti che potrebbero recuperare la materia, impianti che riciclano plastica o carta, che in questo momento debbono importare i rifiuti dalla Bulgaria, dalla Romania. Allora il paradosso è che noi, a fronte di un quantitativo di rifiuti pari a quello delle altre regioni, i nostri rifiuti non entrano in un circuito virtuoso, ma vengono mandati in impianti che li tritano per servire da combustibile agli inceneritori. Noi ormai da anni avanziamo la proposta della filiera del recupero totale della materia. Come è nata l'idea di questa vostra rete? Questo è nato dal confronto anche con altre esperienze internazionali. Il coordinamento regionale è nato 2 anni fa, ad oggi conta 80 comitati di tutte e 5 le province e questo ci permette di essere aggiornati di volta in volta su quello che accade sui territori, ma la cosa più importante è che da ogni territorio viene lanciata la stessa parola d'ordine: filiera dei materiali, riciclo totale della materia e combustione zero. Come sempre potete riascoltare e scaricare questa puntata di Storiacce dal sito radio24.it e da lì accedere anche al nostro audioblog. Aspetto i vostri commenti su Facebook. Ciao, a sabato!